difficile, lo so, però musica allo stato puro ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, le voci un po' più lenta, violenta si gira. Musica più lenta che pace che spera, veloce un po' più lenta, violenta si gira. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, D'Agostino. D'Agostino, D'Agostino, si sente. Se il mondo corre, noi camminiamo molto lentamente, molto lentamente. Noi procediamo pensando, pensando. Stiamo attenti, andiamo lenti, lenti. Violento, lenti. Violento. Artista. We'll be right back. Violento. Bello, bello, bello questo qua. Bello, mi piace. Cos'è? Pigia Pigia. Artista. Lento, violento, bello. Minutaggio. Non pervenuto. La trovi in vendita o me la devo scaricare? Mo' ti attaccamo tutti a che. Vabbè, dai. Resterà PC il sondaggino di Gigi D'Agostino. www.gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Titolo: Cielo. Artista: Federico Romanzi. Dal mondo normale siamo lontani, sulle mani. stai ascoltando? Una luna de la serie. pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata. Digi d'Agostino, Digi d'Agostino. Gigi D'Agostino, musica, musica, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica che unisce, Gigi D'Agostino, musica, musica, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica che unisce. So many smiles are all around the world, and I didn't know. Forte, forte, forte, forte, forte, bello questo qua. Cos'è? Love Transistor. Titolo? Wherever. Bello, bello. Siamo attenti. Siamo attenti. Andiamo avanti. Titolo? Don't Cry Tonight. Gigi D'Agostino. Versione? Gigi e Luca Tanz. I wanna dance. I wanna dance. Agosto. Find the right to dance and share away. Molto meglio il cammino. su un sentiero di lino. È un ottimo posto, molto sicuro. Che una qualunque passeggiata in mezzo alla carreggiata. Tu hai fatto la scelta giusta. E sì. Titolo? Gigi Slam. Artista? Lento Violento Man. Stiamo ascoltando, fratello. Pagan. Artista? Magna Romagna. Eh? Magna Romagna. Vabbè. Quando è che è meglio, sta per capire.

l'obiettivo di oggi è... Riprenderai lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me, ritroverai le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sé. Giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritorni. Che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sé. Senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai. M2O, il cammino di Gigi D'Agostino. Bello, bello, cos'è? Noise of Love. Titolo? The Only One. I can feel in my heart that tuning in tonight, you'll be only the one, you are my baby. I can feel in my heart that tuning in tonight, you'll be only the one, you fingers in my fears. I wanna melting into tears. Time, there is no way to change my mind. Let me lento, violento, violento. Say